3, 2, 1, via! Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata dell'Incredulo con la vostra apprendista strega, maga fattucchiera, ma in realtà anche abbastanza seria, Elisa. E il nostro incredulo Giorgio. Buongiorno Giorgio. Elisa, come faccio a non essere incredulo? Senti, una signora mi ha raccontato questa storia. C'era un gruppo che facevano meditazione, parlavano, dice no, perché il karma, il chakra, qui e là, il sotto e sopra. E lei in qualche modo si è interessata e si è iscritta. E da quando si è iscritta sono partiti con la bambola. Alieni, Atlantide, il dio Thoth, le tavolette, insomma, tutte queste baggianate. A me non mi fregano, a me questi venditori da quattro soldi di spiritualità un tanto al chilo non mi incastrano. Pertanto, in questa trasmissione è noto che trattiamo solo argomenti di solida accettazione medico-scientifica e infatti nelle puntate precedenti abbiamo parlato di vabbè, abbiamo parlato di chakra. Insomma, oggi i campi da esplorare sono moltissimi, non è uno scherzo. Molte case farmaceutiche hanno, per esempio, scandagliato fino in fondo la medicina tradizionale cinese e uno pensa che questa sia roba da mercatino degli sciroccati, dei fricchettoni. Elisa non è una sciroccata, Elisa non è una fricchettona, Elisa è una persona serissima che sa quello che dice. Almeno a me che sono incredulo sembra questo, e in particolare è molto documentata. Di che stranezza, Elisa, parleremo oggi? di una cosa che piace a tutti tantissimo e che è molto benefica se usata nella maniera giusta, della cioccolata. Sì, la cioccolata, ma Elisa, ma com'è che trattiamo della cioccolata? Alla fine è un prodotto industriale e i dentisti dicono che pure fa male. Poi la domanda che sarebbe da farsi è: i dentisti che hanno interesse al fatto che abbiamo i denti bacati, perché ci dicono di non mangiare certe cose mentre di mangiarne altre? Chi lo sa, ma a parte che la cioccolata, se non è be bellissima, macchia anche i denti oltre a cariarli, quindi magari è perché non vogliono vedervi troppo spesso a sbiancarvi i denti. Ah, va bene. Però la cioccolata ha un potere molto molto benefico, quindi è un cibo, se usato bene, che può aiutarci. Ma non nella sua accezione come la conosciamo tutti, quindi non cioccolata al latte, che già sappiamo che lo zucchero di latte fa male. Quindi la maggior parte di noi, se si vogliono togliere una voglia, lo fanno col cioccolato fondente, che però, per come viene lavorato, alla fin fine perde tutti i valori del cacao puro e prende gli zuccheri, quindi anche il cioccolato fondente, se preferibile al cioccolato al latte, non è che faccia benissimo. Esiste però un modo per mangiare la cioccolata: è usare il cacao crudo o il Il cioccolato. cacao crudo. E dove si trova? Che cos'è il cacao crudo? Allora, il cioccolato viene estratto dalle fave di cacao, fino a qui più o meno tutti lo sapete. D'accordo. Ok. Cosa viene fatto per ottenere il cioccolato? Viene tostato e tostandolo perde la maggior parte dei suoi nutrienti e quindi fa sì che a noi ci piacciano, però dall'altra parte non diventa più un cibo benefico. Mentre il cacao crudo è proprio la forma originaria del cioccolato, quindi della versione delle fave non tostate e quindi poi non lavorate. Ed è ricco di antiossidanti, vitamine e minerali essenziali. Come si fa a trovarlo? Per trovarlo bisogna cercare in questi negozietti un po' salutisti, quindi negozi biologici, quelli dove ci sono i rastoni, insomma. Esatto, quelli dove ci sono i rastoni, quindi supermercati, diciamo, bio, oppure piccoli negozietti orientati alla salute, oppure online li trovate sicuramente. E dicevo, come beneficio, il cacao crudo contiene tantissime vitamine, minerali essenziali, tra cui il magnesio, il calcio, il ferro, lo zinco, il rame, il potassio e il manganese. Poi i flavonoidi, famosi per le proprietà antiossidanti, vitamine del gruppo B, quindi B1, B2, B3, B5, B9 e vitamina E. Grassi essenziali per la salute del cuore, quindi l'acido oleico, quindi i famosi grassi e oli che fanno bene. Proteine e fibre. Quindi il cacao crudo è un ottimo aiuto per chi soffre di pressione alta, perché aiuta a abbassare la pressione sanguigna e migliora la circolazione, quindi favorisce una funzione cardiovascolare molto più efficiente e può neutralizzare, visto che contiene l'acido oleico, i radicali liberi, migliorando la digestione anche e il benessere fisico e mentale. Elisa, da come hai descritto questo cacao puro, questo cacao di fava, insomma, mi ricorda molto il cacao che cucinavano gli Aztechi e che faceva schifo agli spagnoli. E pensa che gli spagnoli in quel tempo era gente che praticamente bruciava l'erba. Per cui la domanda è: hanno messo sì lo zucchero nel cioccolato, ma per renderlo gustoso ai nostri palati? Non è che con questo cacao crudo ci beviamo, ci mangiamo una roba amara tremenda come la disgrazia. Se mi viene in mente il cacao messicano, ti posso dire che anche a me non mi ha fatto impazzire quando ci sono stata. Ero molto molto curiosa di assaggiare questa pasta di cacao e ne sono rimasta schifata. Però se siamo abituati un pochino al sapore del cioccolato fondente, che è amarino, soprattutto quello a alti gradi di fondenza, il cacao crudo più o meno ha lo stesso sapore. È sicuramente molto molto molto più amaro di un cioccolato al latte, quello sicuramente sì. Quindi per cacao crudo intendi anche, per esempio, sempre roba da supermercato, ma insomma quelle barre di cioccolata che dichiarano 70-80-90% di cacao, quello più o meno sarebbe il cioccolato crudo? No, perché quello è il cioccolato fondente, che è lavorato, quindi sono le fave di cacao lavorate tostandole e perdono, come ti dicevo prima, la maggior parte delle proprietà nutritive. Il cacao crudo è la fava di cacao che viene appunto non tostata, ma viene essiccata a basse temperature, e da lì poi si ottiene delle bellissime varietà che poi vi spiegherò un pochino più avanti e i suoi utilizzi. Quindi se lo volete provare il cacao crudo, sicuramente è meglio addolcirlo o con, per chi non è vegano, con il miele o con lo sciroppo d'agave o tutti questi nuovi zuccheri, diciamo un pochino meno nocivi dello zucchero bianco. E si può provare prendendo appunto le fave di cacao essiccate, quindi cacao crudo, avvolgerle o immergerle dentro questo liquido un pochino dolcino e metterle nel congelatore, poi usarle come popcorn davanti a un film. Ma dai, allora questo cacao crudo nel negozio degli hippie non è fatto a cioccolata, a tavoletta o a panetto di burro, ma sono proprio le fave, i semi del cacao che si consumano. Esatto, e poi viene usato anche in altre forme. Per esempio, un tipo di cacao crudo è il cacao criollo, si chiama così, ed è un pochino più dolce, la fava è un pochino più dolce rispetto a quella del cacao normale. Al nostro palato ci piace un pochino di più. Però il cacao crudo, oltre che nelle fave o nei semi, pelate e non pelate, si trova anche in granella. Che, ovvero i semi che sono stati tolti dalla pellicolina che hanno intorno e ridotti in granella già per poterli utilizzare. Oppure dalla granella si arriva quindi alla polvere, quindi vengono spremuti a freddo questi semi di cacao per ottenere piano piano questa polverina. La pasta di cacao, che è quella che io ho provato in Messico, che è praticamente il precursore del cioccolato, quindi viene lavorata pianissimo pianissimo a basse temperature la fava per ottenere questa pasta un pochino più simile, diciamo, è una via di mezzo fra il cioccolato finito e il cioccolato sciolto, e si può usare per preparare i cioccolatini se uno c'ha voglia di fare cioccolatini di cacao crudo in casa, sciogliendola piano piano a bagnomaria e mettendoci un dolcificante a scelta, e poi una volta sciolto si mette in frigo finché si solidificano. Oppure si possono trovare in commercio le tavolette di cioccolato crudo, che sono diverse però dalle tavolette di cioccolato fondente, quindi stateci attenti, ci deve essere proprio scritto tavolette di cioccolato crudo, che si può usare come snack per uno spuntino, ed è di solito privo di conservanti, di zuccheri e anche di lattosio. Per quello che riguarda il cioccolato commerciale dal supermercato, il marketing tende a mettere sulle etichette la provenienza: cioccolato dell'Ecuador, cioccolato africano, cioccolato del Ghana, non lo so. Anche in caso di cacao crudo c'è differenze tra i cacai o i cacao, insomma qui il plurale diventa complicato, un po' gorilla gorilli, e la provenienza è importante di queste fave o di queste polverine o di queste barrette, oppure nel cacao crudo non fa molto vendere, insomma? Oggi non c'è ancora tutta questa differenziazione come ci può essere nel cioccolato. L'unica cosa è importante pensare che vengano da agricolture il più possibile biologiche, quindi state attenti che siano cacao crudo di origine biologica, perché se è un cacao crudo di coltivazione industriale già metà dei suoi benefici li perde per come viene, diciamo, coltivato il cacao. Quindi l'unica cosa a cui vi dico di stare attenti, poi non se ne trova ancora tantissimi differenze a giro, ce n'è pochissime, quindi non c'è differenza al momento di qualità. Magari se prende un pochino più di mercato sicuramente ce ne saranno di più. E il consumo, quanto suggerisci di mangiarne al giorno o alla settimana per mantenere i benefici che hanno evidentemente questo tipo di frutti, di bacche, di semi, di fave, senza incappare negli effetti collaterali, che si sa, una cosa presa regolarmente praticamente tutti i giorni nelle quantità sbagliate poi alla fine ci avvelena? Tanto dipende dal, si torna lì, dal sapore, perché amaro è amaro, cioè anche se lo addolciamo un pochino il sapore è tanto forte, quindi dipende tanto dal gusto. Non ha effetti collaterali, quindi è in ogni caso sempre benefico, ha dei nutrienti che se in eccesso il nostro corpo è in grado di smaltirlo. Però ecco, io comincerei come sempre a piccole dosi, perché poi magari si inizia la moda del cacao crudo e poi ci viene a noia. Lo inizierei a usare insieme a altre cose che noi prendiamo, quindi non so, se ci facciamo frullato di frutta, a mescolare un pochino di polvere nel frullato di frutta, aggiungere le fave intere se la mattina prendiamo i cereali o il muesli, aggiungere la granella se ci facciamo il porridge di avena con lo yogurt vegetale, oppure mescolare la polvere con un latte vegetale, che è già di per sé un pochino più dolce del latte normale, anche lo yogurt vegetale un pochino più dolce, per cui diciamo stempera un po' l'amaro, e magari berlo come cioccolata calda, diciamo, Oppure si può aggiungere, se siamo degli sportivi, aggiungere un pochino di cacao, di polvere di cacao al drink proteico, e utilizzare invece la granella come si userebbe la granella di cioccolato, quindi nello yogurt, nei pancake, nei muffin, nei biscotti. Ecco, io direi di provare a aggiungerne un pochettino a quello che già noi usiamo, mangiamo, siamo soliti fare, senza stravolgere tanto la nostra vita. E poi, come vi dicevo, se vi piace, lo spuntino di mezza mattina o di mezzo pomeriggio, provarlo a sostituirlo con una tavoletta di cioccolato crudo, una barretta di cioccolato crudo. Sempre sulle cioccolate da supermercato campeggia la tabella dei valori nutrizionali e fa vedere le calorie che sono qui là, zuccheri, grassi. In confronto con il cioccolato, questo crudo, la differenza calorica o di apporto di grassi o di zuccheri, qual è tra le due? Cioè tra la cioccolata industriale anche fondente, anche al 70%, e il cioccolato crudo? Zucchero non ne ha, quindi zuccheri dovete togliere proprio dall'immaginario. Sicuramente come calorie, valori nutritivi, insomma apporti di grassi e tutto, consideratelo come un cioccolato fondente, più o meno da paragonarsi, quindi ha gli stessi apporti calorici e di grassi e di proteine eccetera del cioccolato fondente. Quindi anche se rimane lavorato a crudo, senza l'aggiunta di zuccheri o grassi idrogenati, questi dell'industria, comunque è un prodotto, è un cibo piuttosto calorico. Quindi non è che uno ne mangia un chilo, dice no, ma sai, tanto fa bene. Sì, sicuramente sì, però tieni presente che la cioccolata fondente non è poi così tanto calorica come diciamo potrebbe essere la cioccolata al latte. Un mio amico che lavorava in una fabbrica di cioccolato, una marca notissima, diceva: è il peggio cioccolato che siamo in grado di trovare sul mercato, e è famosissimo e mangiato da grandi e bambini. Elisa, grazie di questi suggerimenti. Ora, per noi che viviamo in piccoli paesi, sarà complicato trovare queste fave di cioccolato, ma chi lo sa, qui due o tre erboristerie ci sono, e comunque la città è vicinissima, e poi c'è San Amazon, che quello ti manda a casa anche un elefante rosa. Elisa, grazie. Grazie a te Giorgio, e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, e spero che vi abbia incuriosito il cioccolato crudo e che abbiate voglia di provarlo. Insomma, invece di mangiare pane e veleno, mangiatevi pane e cioccolato crudo, tanto è amaro uguale. Olè!